Dagli incontri nascono sempre nuovi stimoli, nuove idee. Ma quando ad incontrarsi sono dei musicisti, ecco che nasce qualcosa di profondamente diverso. Qualcosa che rimane e aggiunge una nuova nota sul pentagramma. L'esperienza dei magnifici e di destini incrociati in un nuovo programma, nel quale, attraverso i loro incontri, i grandi della musica danno vita a sorprendenti connessioni per creare nuovi mondi musicali. Radio 24 presenta I Magnifici Destini, un programma di Giacomo Zito. C'è forse bisogno di dirvi a chi appartiene la voce che avete appena ascoltato? Certamente no. Ma dopo tutto ribadirlo non fa mai male. Questo splendido ruggito è quello di una tigre nata a Cremona e ormai trapiantata in Svizzera. Probabilmente la più grande interprete di canzoni che l'Italia abbia mai conosciuto. La grande, inimitabile, Mina. Qui si sta esibendo alla mitica bussola di Marina di Pietrasanta in Versilia, locale che nel corso degli anni 70 ha ospitato le ultime strepitose esibizioni dal vivo della cantante. Mina ha saputo rendere immortali i brani scritti da moltissimi autori, da Gino Paoli a Fabrizio De André, passando per Cristiano Malgioglio e Paolo Limiti. Questa canzone, che si intitola Io vivrò senza te, costituisce uno dei cavalli di battaglia del suo repertorio, nonché uno dei brani che le consentono di esibirsi in interpretazioni quanto mai sentite e struggenti. Una canzone che le è stata regalata da un geniale musicista il cui magnifico destino un giorno si è intrecciato a quello di un abilissimo paroliere, producendo pezzi ormai entrati di diritto nella storia non solo della musica, ma della cultura e del costume del nostro paese. Poi d'improvviso lei sorrise e ancora prima di capire, mi trovai sotto braccio a lei stretto come se non ci fosse che lei. Vedevo solo lei e non pensavo a te. Questa invece è la voce di Maurizio Vandelli, modenese, uno degli alfieri del beat italiano. Canta una canzone celeberrima che porta il titolo di Un giorno di settembre, il 29 per la precisione. Vandelli ci mette le corde vocali, ma ancora una volta il pezzo non lo ha scritto lui. Anche in questo caso gli è stato donato da quello stesso prolifico autore che tuttavia nel 1967 non ha ancora trovato il coraggio di metterci la faccia e cantare le proprie canzoni da solo anziché affidarle a qualcun altro. Questo lato timido, schivo e all'apparenza vagamente scontroso è un suo marchio di fabbrica e gli causerà una certa antipatia da parte della stampa. Lui, in tutta la sua riccioluta complessità, è l'immenso Lucio Battisti. Allora Lucio, vogliamo fare delle domande a Lucio Battisti? Benissimo. Chi è che può fare? Se qualcuno ha il microfono a disposizione può benissimo Lucio, fare le domande a lui. Senti. Ma io non capisco mai da dove arriva la voce. Non ti preoccupare. Ecco, scusa. No, lì. A sinistra. Tutti quanti ti attribuiscono dei valori come di un cantante impegnato, eccetera. A me sembra semplicemente che tu parli dell'amore però con altre parole. Soltanto questo, insomma. Una costellazione. Sì. Ah, cioè, se tu ti consideri un cantante impegnato o meno? No, non è che impegnato, io sono disimpegnato di tutto, tranquillo proprio. Battisti ha sempre amato scherzare sul ruolo chiave che le sue canzoni e la sua figura hanno ricoperto nella coscienza di un paese. Gli anni 70, tempo di cantautori impegnati e dure contestazioni sociali, forse non erano il momento ideale per parlare d'amore. Eppure nel corso degli anni molti hanno ammesso di essere stati detrattori di Battisti solo per convenienza, perché toccava essere impegnati a ogni costo. Salvo poi ascoltare le dolci parole di Lucio in segreto, quasi vergognandosene. Secondo me, anche se non si dice molto volentieri, snobbato, molto in ombra, viene messo apposta. No? Sì, è lui è, stesso che è si... il più, sì, ma è il più valido compositore che abbiamo mai avuto in Italia, senza dubbio questo. Il chitarrista Alberto Radius non ha dubbi. Battisti è uno che l'idea di fare musica non lo ha mai mollata nemmeno per un secondo. Non ha mai pensato ad altro che quello fin da quando era piccolo. Anche se a dire il vero Lucio ha attraversato una fase in cui avrebbe addirittura voluto prendere i voti e diventare prete. Può darsi che fosse affascinato dagli abiti talari, un po' come ai bambini capita di venire rapiti dal casco di un astronauta, dalla divisa di un pompiere o dal tutù e dalle scarpette di una ballerina. Ma la vera vocazione di Lucio non ha mai avuto a che fare con la Trinità né coi quattro evangelisti. È sempre stata legata in maniera indissolubile all'universo delle sette note. Poesia di un amore profano, la paura d'essere preso per mano, che ne sai? Poggio Bustone, in provincia di Rieti, è un piccolo comune di 5.000 abitanti adagiato su una collina del Reatino. E proprio in quel mondo tutto chiuso in una via, per essere più precisi, in via Roma, al civico numero 40, che nasce Lucio Battisti il 5 marzo del 1943, esattamente 24 ore dopo il 4 marzo, il giorno in cui il destino vuole che sia nato un altro Lucio e che saprà dare a sua volta un altro grande contributo alla canzone italiana. Dice che era un bell'uomo e veniva... veniva dal mare, parlava un'altra lingua, però sapeva amare. E quel giorno lui prese a mia madre sopra un bel prato, l'ora più dolce prima d'essere ammazzato. Le note che sentite sono proprio quelle di 4 marzo 1943, data di nascita che è diventata una delle canzoni più celebri di Lucio Dalla. Lucio e Lucio, due nomi identici e due destini simili che palpiteranno eternamente a suon di musica. Quel marzo del 43 è stato un mese fortunato. Il destino di Lucio Battisti inizia nelle campagne del Reatino, nel classico paese piccolo dove la gente mormora. Un posto in cui tutti si conoscono ed è difficile distinguersi dal momento che un quinto degli abitanti di cognome fa proprio Battisti. Ci sono i Sandro, i Giovanni, perfino gli Aristorimo, i Torindo, gli Olgrado e tutti di cognome fanno Battisti. I residenti a Poggio Bustone sono come una grande famiglia ed è difficile per un bambino di inclinazione introversa ritagliarsi il proprio spazio vitale. Lucio è grassottello, complessato. I coetanei si sprecano in soprannomi. Tutto tondo, ciccio bombo. La musica è il non luogo in cui rifugiarsi per trovare conforto, quiete. Un nascondiglio perfetto, anche se suo padre, Alfiero, non la vede allo stesso modo. Poi, visto che lui insisteva, ho detto a me va bene, allora impara la musica e vai avanti. Io, siccome ero un dipendente pubblico, mi faceva piacere che lui studiasse e prendesse, si parla di 50 anni fa, tutti i genitori avrebbero voluto che i bambini, i figli studiassero per un posto fisso. Un genitore per il proprio figlio sogna il posto fisso, non certo un futuro da musicista capellone squattrinato. E va bene che continui pure con questo suo maledetto sogno. E questo è quello che pensa con un certo fastidio il papà di Lucio. Gli compra la chitarra, ma lo mette in guardia. Questo è solo un capriccio, vedrai che la abbandonerai molto presto in cima all'armadio. Si sbaglia di grosso. Lucio di studiare per il fantomatico posto fisso non ne vuole proprio sapere e non ha nemmeno nessuna intenzione di dimenticare la chitarra nello sgabuzzino come una specie di simulacro dei sogni infranti della gioventù. Alfiero Battisti, frustrato dal mancato avverarsi della sua profezia, un giorno cerca di rompere la famosa chitarra sulla testa del figlio nel tentativo maldestro e disperato di distoglierlo dal fermo proposito di diventare musicista. Un gesto discutibile e uno sforzo decisamente inutile. All'età di 16 anni, quindi 16 anni, andava a mille luci a via nazionale, ci manteneva solo, non aveva chiesto mai i soldi. Alfiero Battisti potrà anche essere contrario, ma Lucio invece è irremovibile. La musica deve essere il suo futuro, non esistono possibili alternative. Lucio, stremato ma non sconfitto dalla resistenza paterna, fa un patto con Alfiero. Studierà e prenderà l'agognato diploma se proprio ci tiene così tanto, purché poi possa avere via libera per tentare la fortuna come meglio crede. Il sudato pezzo di carta Lucio lo conquista nel 1962. C'è scritto sopra perito elettrotecnico, ma lui non può fare a meno di leggerci musicista. Il giovane Battisti inizia a militare in diverse orchestre e complessi che si esibiscono in giro per locali. Suo padre non crede in lui, ma sua madre, in compenso, gli confeziona un fodero di stoffa nera dove riporre la sua preziosissima chitarra. Lucio, insieme al complesso dei Mattatori, nell'autunno del 1962, suona in tutti i club di Napoli per 5.000 lire a testa a serata. Una bella cifra. Ma Lucio si sente solo. Non ha legato con gli altri del gruppo e ha un disperato bisogno di amici e consigli. Forse è meglio cambiare aria. Tenta la fortuna nei locali della capitale. Uno di questi è il Cabala, un night esclusivo in Via dell'Orso, frequentato dai divi del cinema e personalità provenienti da mezzomondo. Sono i primi anni 60, nella città eterna e altrove si respira un'irripetibile atmosfera sospesa tra la dolce vita e il desiderio di allacciarsi, musicalmente parlando, alla tradizione dei paesi anglosassoni, imitando i Platters e studiando il rock and roll. Interpreti ne sono i Campioni, celebre complesso che calca ogni sera il palcoscenico del Cabala. Il loro primo chitarrista, Bruno De Filippi, è autore della musica di una celeberrima canzone portata al successo dall'incontenibile Mina. Ma i Campioni, però, a dire il vero, sono stati i primi a inciderla e a cantarla. Tintarella di luna. Anche Lucio bazzica il Cabala. È lo stesso palcoscenico dove si esibiscono i Campioni. Anche lui suona in un complesso. Stavolta si chiamano i Satiri e sono capitanati da Enrico Pianori, musicista di fama. È proprio nell'orchestra di Enrico Pianori che viene notato da Robby Matano, che stava cercando un nuovo chitarrista per i Campioni. Michele Neri è una delle massime autorità italiane in materia battistiana. Ci aiuta a ricostruire l'episodio. Lo storico chitarrista dei Campioni Bruno De Filippi, già autore di Tintarella di Luna, nel 1963 decide di lasciare il gruppo per tentare la carriera da solista sull'onda del successo di quella fortunatissima hit. Ai Campioni dunque serve un nuovo chitarrista. Robby Matano, il frontman, aguzza i suoi sensi in cerca di un sostituto. La soluzione è proprio lì, a portata di mano. Al Cabala i Campioni sono sì le star del palcoscenico, ma sono affiancati da alcune band di supporto. In una di queste, i Satiri, milita un giovane dall'aria timida, sempre un po' sulle sue e concentratissimo sulla sua chitarra. Robby Matano non può fare meno di notarlo. Ha un modo speciale di suonare, fresco, duttile, sa spaziare tra i generi più diversi. È lui il sostituto ideale. Il magnifico destino di Lucio Battisti si intreccia così a quello del suo primo vero sponsor. Fino a quel momento nessuno aveva seriamente creduto in lui e nelle sue aspirazioni da musicista. Matano invece ci crede come? A differenza di suo padre. Lucio si sente meno solo, per giunta lui e Robby diventano subito amici. Battisti è il più giovane di tutti lì dentro e si merita un soprannome decisamente più gentile di quelli che gli appiccicavano addosso i coetanei quando era ragazzino. Cucciolo. Matano lo prende sotto la sua ala, lo consiglia, lo sprona e se lo porta in tournée in giro per l'Europa. Nel 1964 i Campioni suonano in Olanda e in Germania, dove passano intere giornate ad ascoltare dischi che spesso in Italia non arrivano. Bob Dylan, gli Animals. Lucio cresce anche grazie a loro, ai grandiosi esempi stranieri che in futuro lo faranno uscire dal seminato della tradizione musicale italiana. Colpito dal suo incredibile estro, Matano capisce di potersi spingere un po' più in là con Lucio. Averlo preso a suonare con sé non basta. Matano lo inizia gradualmente all'attività di compositore. A Roberto, con tanta simpatia, l'autore iscritto alla SIAE. Questa è la dedica che mi fece Lucio per prendermi in giro, perché io non ero iscritto alla SIAE e lui sì. E questo pezzo, inciso dai Dick Dick, fatto da tutti e due, è stato firmato solo da lui. Amore, se rimani con me, se non ami come prima, non pensare. Con i miei baci ti saprò riconquistare, amore, se rimani con me. La canzone che sentite in sottofondo è Se rimani con me, incisa dai Dick Dick nel 1965. Il testo è scritto da Robby Matano e la musica da un giovane Lucio alle prime armi con le composizioni musicali. Il nome di Matano non è registrato alla SIAE ed è per questo che l'unico nome a comparire sul bollettino degli autori è proprio quello di Battisti. Ci sono state tante altre canzoni che abbiamo scritto assieme, solo che gli editori non le volevano. Non le volevano perché i testi che facevo io non erano un granché. Robby Matano ha capito che dietro la timidezza e l'atteggiamento vagamente schivo e impacciato di Lucio si cela un talento raro, prezioso e bisognoso di attenzione. Robby è il primo a farsene carico. Fa sentire le demo ai discografici. Gira come un forsennato per Milano in cerca di qualcuno che sia disposto a concedergli un'occasione. Già, Milano. Nel frattempo i campioni si sono trasferiti nel capoluogo lombardo, cuore pulsante dell'industria discografica italiana. Il centro della città è una specie di triangolo delle Bermude, di speranze, stretto tra le poche centinaia di metri che separano Piazza Beccaria, Corso Europa, Corso Vittorio Emanuele e la Galleria del Corso, dove ancora si può parcheggiare l'automobile. Lucio affitta una stanza in via Festa del Perdono, a due passi dall'Università Statale, e inizia a frequentare i locali della zona. Allo York Bar di Piazza Beccaria conosce Mario Lavezzi, mentre al Santa Tecla suona insieme ai campioni. Quando non si esibisce con la band, passa tutto il tempo a casa del suo amico Robby, a strimpellare, a comporre melodie fino a notte fonda. A volte capita che magari Robby esca e lasci Lucio in casa intento a canticchiare qualcosa. Quando torna di norma, lo trova addormentato, completamente vestito e con la chitarra in mano. Matano e Battisti compongono insieme alcuni pezzi. Ma i loro nastri non convincono fino in fondo gli addetti ai lavori. Le musiche sono penalizzate da testi troppo deboli. D'altronde Matano è anche lui un musicista puro, come Battisti. Quello che servirebbe in questo caso non è un virtuoso delle note, ma un esperto della parola. Lui aveva avuto un appuntamento con me tramite Cristelle Ru, che era una mia amica. E io avevo già scritto molte canzoni di successo e lui era un ragazzo. La voce che avete appena sentito è la voce del destino. Del magnifico destino che sta per travolgere del tutto la vita di Lucio. Lui, Giulio Rapetti, è l'elemento che manca a Battisti per chiudere il suo cerchio personale. Lucio è timido, non è mai stato bravo con le parole. Quello che gli serve è giusto giusto un paroliere, qualcuno che sia capace di esprimere in italiano l'inesprimibile. Tutte quelle sensazioni che lui sa mettere in musica ma non sa dire. E chi, meglio di Giulio Rapetti, in arte Mogol, può farlo? I magnifici destini. Per una lira io vendo tutti i sogni miei. Per una lira ci metto sopra pure lei. Lucio Battisti, milanese d'adozione, suona nei campioni insieme al suo amico Robby Matano, che ne ha intuito l'enorme talento. Insieme scrivono alcuni pezzi che Matano riesce a far sentire in giro a qualche addetto ai lavori, ottenendo un appuntamento con un pezzo grosso di una casa discografica, Franco Crepax, della CGD. Quel giorno per Lucio si rivela fondamentale. Fa un freddo cane a Milano. Non è mica come nel centro Italia, dove al massimo d'inverno ti infili un cappotto e via. È il 14 di febbraio del 1965 e le mani fuori dalle tasche ti si congelano. Lucio si dirige a passo spedito verso la Galleria del Corso, dove hanno sede molte case discografiche, tra cui la Compagnia Generale del Disco, fondata nel dopoguerra da Teddy Reno. Lì ha un appuntamento con un dirigente, spera di fargli una buona impressione. L'attesa gli sembra interminabile, mentre aspetta non sa cosa fare, si mette a strimpellare. Del resto per lui è la cosa più naturale al mondo. Nei corridoi in quel momento passa Christine Leroux, ragazza francese che si occupa di produzioni discografiche. Lo sente suonare e ne resta letteralmente folgorata. Come musicista, quel ragazzo bruno dall'aria un po' fragile, è un vero portento. Peccato che i testi che canta siano terribilmente banali, poco adatti metricamente alla musica. Christine ha subito un'intuizione. Sa benissimo da chi portarlo. E mi presentò questo ragazzo, mi fece sentire due canzoni, parole e musica, e mi chiese cosa ne pensavo. Io dissi che non mi sembravano granché, e lui mi fece un bel sorriso e mi disse: anch'io sono d'accordo. Per cui l'ho preso in simpatia, proprio perché di solito il dilettante si arrabbia se gli dici, no? Che le sue canzoni non sono granché. E questo era stato sincero. La voce che avete appena sentito è quella di Giulio Rapetti, figlio di un dirigente di un'altra casa discografica, La Ricordi. Anche lui, come il padre, lavora in quella stessa azienda. Giulio fa il paroliere e si firma con lo pseudonimo di Mogol. Ha già scritto diverse canzoni di successo, ad esempio Una lacrima sul viso, portata alla ribalta da Bobby Solo al Festival di Sanremo del 1964. Da una lacrima sul viso ho capito molto. Tanti Christine Leroux sa che Mogol è la persona giusta per dischiudere davvero il talento di Battisti, anche se all'inizio il paroliere è perplesso. I pezzi di Lucio non lo convincono e lui non ne fa mistero, ma qualcosa di inspiegabile, di impalpabile, brilla comunque in quel ragazzo. Quello che mi colpì soprattutto fu questa sincerità e il fatto che avesse un sorriso così luminoso. Allora, così mi fece tenerezza, un ragazzo. Dissi, vabbè, metti la testa dentro la porta, verso la una, e magari proviamo a scrivere qualche canzone, ma senza nessun intendimento professionale, lo facciamo così per vedere cosa esce. Da una simpatia appena affiorata e da una buona dose di coraggio misto a incoscienza, nascono i primi tentativi del duo Mogol-Battisti. Lucio compone melodie e Giulio ci ricama sopra liriche azzeccatissime. Qualcun altro poi le canta. La prima hit è 29 settembre, composta dal duo Mogol-Battisti ma portata al successo dall'Equipe 84 di Maurizio Vandelli. Il talentuoso ma timido Lucio non si azzarda a tirare fuori la propria voce, lo fa nelle demo quando deve dare a Mogol l'idea della melodia che sta componendo. Lucio, quando scriveva con me, scriveva la musica prima, quindi mi arrivava una canzone che lui cantava in inglese maccheronico, come sempre accade, che non aveva nessun senso, e io scrivevo le teste, il testo, lui mi accompagnava la chitarra, stava lì con me. I due si compensano a vicenda, proprio come due magnifici destini intrecciati. Battisti ci mette tutta la sua furia compositiva, pizzicando e mordendo a più non posso le corde della sua chitarra, mentre Mogol, sentite le proposte melodiche, si lancia in invenzioni verbali che molto spesso travalicano le convenzioni e le ipocrisie dell'epoca. I due si immergono totalmente in questo nuovo menage lavorativo. Giulio sprona Lucio, convinto di scorgere in lui un potenziale pressoché illimitato. D'altronde è proprio la musica di Battisti a guidarlo nel processo di creazione, quasi fosse un flauto magico capace di addomesticare i pensieri e renderli fluidi, limpidi, leggeri. Mi approccio alla musica con la testa sgombra, con la mente limpida e sgombra, e attendo quello che mi suggerisce la musica. Cioè, io cerco di capire che cosa c'è dentro la musica. Mogol e Battisti iniziano a comporre insieme sentendosi investiti da una sorta di marea inarrestabile, da qualcosa di molto più grande di loro. Cominciano quasi per scherzo sull'onda di una simpatia e si ritrovano a macinare idee a più non posso, allontanandosi a velocità sostenuta dai sentieri canonici della canzone italiana. Lucio non chiede altro che questo. Da sempre sogna la libertà di esprimersi attraverso le note musicali. Giulio è colui che gliene dà la possibilità, trasformando una passione e un imperativo interiore in un mestiere. Nasce il sentimento, nasce in mezzo al pianto che si innalza altissimo e vola sulle accuse della gente, a tutti i suoi retaggi indifferente, sorretto da un anelito d'amore. Questo pezzo, uno dei più celebri del duo Mogol-Battisti, si intitola Il mio canto libero. Eppure il canto di Lucio agli inizi è tutt'altro che libero. La timidezza gli impedisce di metterci la faccia, di esporsi in prima persona. Lui e Mogol compongono in tandem splendidi brani che poi però vengono portati al successo da altri, dai Ribelli, dai Dick Dick, dall'Equipe 84. È proprio Maurizio Vandelli, leader di quest'ultima band, a ricordare con stupore una delle prime volte in cui Lucio ha capito di poter sfondare non solo grazie alle sue canzoni, ma salendo lui stesso, in primissima persona, sul palco a cantarle. Ricordo una cosa che ai tempi mi aveva lasciato un pochino così, scioccato. Eravamo nella confusione generale di un cantagiro, adesso non ricordo in quale anno, io con gli anni faccio molta confusione. Sì, a voi che lui. Sì. Noi portavamo tutta mia la città e lui aveva acqua azzurra, acqua chiara. E ricordo che nel caos generale di questo, dietro al palcoscenico, con veramente migliaia di persone in quel periodo, c'era Lucio che già allora restio a presentarsi alla gente in pubblico, se la faceva proprio sotto a uscire. È uscito, ha avuto un successo incredibile veramente, perché doveva essere ancora conosciuto dalle grandi masse, è sceso dal palcoscenico e mi ha detto proprio questa frase: a Maurì non mi ferma più nessuno. A un certo punto della sua carriera, nella seconda metà degli anni 60, Lucio decide di tirare fuori la sua voce un po' roca, tremolante, ma inconfondibile. Un marchio di fabbrica che si allontana molto dall'idea del bel canto che ancora vige incontrastata tra i palcoscenici di tutta Italia, stretta tra i fiori sanremesi e le raccomandazioni degli studi RAI. Ed è proprio la RAI a porre il freno per un certo periodo alle gloriose aspirazioni di Lucio. La voce di Battisti per i dirigenti dell'azienda non è abbastanza telegenica, come si suol dire. La RAI aveva bocciato Battisti come cantante, cioè non avrebbe trasmesso i suoi dischi. A dire il vero, poi, a Lucio non è mai importato molto di cantarle le sue canzoni. A lui è sempre piaciuto scriverle. E Mogol, col quale ormai ha stretto una bella e sincera amicizia, a ricordargli continuamente che quei pezzi, eseguiti con la sua voce, hanno tutto un altro fascino. Lucio è ancora un ragazzo, non ha nemmeno 30 anni, è pieno di speranze per il suo futuro artistico, prontamente compensate da freni, insicurezze, ansie di fallimento. Battisti a tratti sembra quasi prigioniero del suo enorme talento, prigioniero del mondo interiore che si agita sotto quella testa di folti ricci. Prigioniero del mondo era quella che faceva... Avere nelle scarpe la voglia di andare, avere negli occhi la voglia di guardare. La voglia di guardare, di scoprire e riversare emozioni nelle canzoni, in quella massa inestricabile di musica e parole, certamente non manca né a Lucio né a Giulio, suo fido compagno di creazioni artistiche. Una voglia che, a sentire il parere di Mogol, traspare ancor meglio dalle loro composizioni, se a cantarle è proprio Battisti con la sua voce così peculiare. Il successo indicibile che li travolge tra il 1969 e l'inizio degli anni 70 ne è una prova inconfutabile. I magnifici destini. Io credo che la sua chioma può essere criticata, non da me, ma da qualcuno può essere criticata, ma le sue canzoni assolutamente no. Allora, dammi il tuo legno, come ha detto Toffolo una volta. Il legno del mestiere. Il legno del mestiere, il microfono credo che sia abbastanza, no? Sì, io non me ne intendo molto. No, benissimo. Benissimo. Io ti tengo la chitarra e tu canta la tua ultima canzone, Acqua Azzurra, Acqua Chiara. Di Mogol Battisti. Sì. Acqua azzurra, acqua chiara. Nella primavera del 1969, la RAI, ormai conscia dell'enorme successo che lo sta travolgendo, accoglie Battisti nei suoi studi. È così che Lucio partecipa alla trasmissione televisiva Speciale per voi di Renzo Arbore, in onda sul secondo canale. Qui viene lanciata Acqua Azzurra, Acqua Chiara, destinata a diventare il tormentone dell'estate del 1969. Con questa canzone, infatti, Battisti arriva terzo al Cantagiro e vince il Festival Bar, distaccando i Camaleonti, secondi classificati, di ben 50.000 voti. Lui e Mogol pensano bene di fondare una casa discografica indipendente, la numero uno, per pubblicare tutti i loro futuri successi. Dunque lui si faceva, mi telefonava quando aveva un album pronto, praticamente. E ogni giorno veniva e scriveva una canzone. Il sodalizio tra il musicista e il paroliere, se possibile, si consolida ancora di più. Insieme macinano canzoni a più non posso. Sia il grande pubblico che gli addetti ai lavori hanno ormai capito il valore delle composizioni firmate Mogol Battisti, specialmente se cantate da quest'ultimo. Al primo successo di Lucio Battisti, omonimo album d'esordio che raccoglie brani già pubblicati come singoli, seguono molti altri dischi costituiti da un insieme di hit tanto popolari da scrivere ciascuno a suo modo un pezzo di storia del costume del nostro paese. Si intensificano anche le comparsate di Battisti negli studi RAI. Lucio appare sempre vagamente impacciato, estraneo alle logiche dell'immagine televisiva, attento solo alla resa della sua musica. Effettivamente questo travestimento dei capelli mi dà... perché credo che tutti noi abbiamo un po', non dico dei complessi, non lo dico, lo dico? Dico. Allora abbiamo dei complessi. E allora c'è chi si nasconde dietro una cosa, chi si nasconde dietro un'altra cosa, io mi nascondo dietro i capelli. Ultimamente, siccome questi complessi sono acuiti, anche i baffi, così. Lucio si nasconde dietro i capelli e i baffi, ma soprattutto dietro la sua musica. Con quella si sente forte, con quella non ha paura di niente e di nessuno. E guidare come un pazzo a fari spenti nella notte per vedere se poi stringere le mani per fermare qualcosa che è dentro me, ma nella mente tua non c'è. Per l'intero corso degli anni 70, la popolarità e il successo di Lucio crescono senza sosta e i suoi album sono sempre ai primi posti delle classifiche di vendita. Nel frattempo ha già smesso da un po' di fare tournée e spettacoli dal vivo. Non vuole mettersi in vendita, esporsi in vetrina. Vuole essere giudicato solo per le sue qualità musicali, non per l'eventuale fascino del suo personaggio. Si allontana sempre più dalle scene e anche da Mogol. Dopo un quindicennio di intensa collaborazione, ognuno prende la sua strada. La ragione è più fisiologica che patologica. Non sempre i due percorsi possono procedere intrecciandosi fino alla fine. I testi degli ultimi 5 album di Lucio, così enigmatici, metafisici, sono firmati da un altro paroliere, il cui destino si incrocia con quello di Lucio grazie all'intercessione di un altro amico, Adriano Pappalardo. È proprio durante la collaborazione di Battisti all'incisione di 2 album di Pappalardo che Lucio ha modo di incontrare Pasquale Panella. È l'autore dei testi di quei 2 dischi, così diversi da quelli morbidi e immediati di Mogol, abituati a parlare per immagini. La sete di sperimentazione per Lucio è sempre stata inestinguibile. Dunque, la prima ragione è stato il desiderio di avere nuove esperienze, chiaramente. Un fiore che... L'incrocio del magnifico destino di Battisti con quello di Pasquale Panella consente a Lucio di continuare sulla via della sperimentazione più forsennata, di sconfinare nei territori della psichedelia e del rock progressivo toccati negli anni 70, fino ad abbracciare l'elettronica e le derive più smaccatamente sintetiche. I risultati di questa sua seconda fase, a livello sia di pubblico che di critica, sono altalenanti. C'è chi grida al miracolo e ci sono anche parecchi, feroci detrattori. Lui tira dritto incurante, come ha sempre fatto. Non saranno certo una manciata di pareri discordanti a fermarlo. Purtroppo però sarà qualcos'altro. Buongiorno, edizione straordinaria del TG2, perché poco fa a Milano è morto Lucio Battisti, il popolarissimo cantautore, si è spento nell'ospedale San Paolo. Difficile dire quanto profondamente questo lutto abbia colpito gli italiani, che lo avevano amato e detestato, idolatrato e accusato di essere un maleducato, un destrorso, un reazionario, un despota. Salvo poi cantare tutti insieme le sue canzoni tra le scintille scoppiettanti di un falò d'estate, abbandonandosi agli amori e alle tenerezze della gioventù. Il più popolare dei musicisti italiani era anche il più ermetico. Era un cantore dell'amore, era uno sperimentatore arguto che non si avviluppava in atteggiamenti da intellettuale. Era semplicemente Lucio Battisti, restio a qualunque definizione. Voleva essere giudicato per la sua musica, ed è quello che ancora oggi accade. È la sua musica e nient'altro a decretare il suo essere genio.